Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, come cercate di fare con gli altri. Lei mandi in merda. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivo! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ogni giorno mi dico che devo smetterla, ma poi alle 18.30 accendo sempre la radio. Giuro, non lo faccio più, non lo faccio più. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Io non so come difenderlo stavolta, David, non so come difenderlo. Mentre sui Frocetti ho provato a difenderlo. Stiamo parlando di un ex rugbista molto famoso che si chiama Lo Cicero. Tu lo prendevi per il culo l'altro giorno, Cicero, Lo Cicero. Hai preso questa brutta abitudine di storpiare i nomi. Come faceva Fede? Adesso andiamo a ritrovare dei pezzi di Emilio Fede quando trasmetteva ed era direttore del TG4, che storpiava i nomi per pigliarli per il culo. E tu dicevi: non si storpiano i nomi, ma fai bene, eh? Una modalità meravigliosa. No, ma a me piace moltissimo. No, ma adesso questo Cicero, adesso tu dici si chiama Lo Cicero, cioè con l'articolo davanti. Lo Cicero. Non questo Cicerone, gli hai detto pure Cicero, non c'entra niente. Lo Cicero. No, Cicerone, per dire Cicerone, che no? Uno che di grandi letture, di grande. Comunque. Lo Cicero, questo è Lo Cicero. Che ha combinato stavolta? Dopo aver detto Frocetti, no? È roba da Frocetti avere le protezioni addosso quando si gioca a rugby. Uso solo il paradenti. Aveva detto, ripetiamo che questo Lo Cicero non è che ne parliamo così perché è un ex rugbista. È sostanzialmente uno degli assessori in pectore della signora Raggi, la donna di cui si parla di più in Italia. In Italia, insomma. Tra gli addetti ai lavori, non solo, naturalmente tra i romani, ma anche all'estero, no? La prima donna sindaco di Roma, 5 Stelle, tutta la prosopopea, le parole che abbiamo sentito in questi giorni. Allora, questo dovrebbe fare l'assessore, il signor assessore. Allora, ha detto, in un'intervista era a febbraio, zingari di merda. Adesso vi faccio ascoltare, lui era là a fare un'intervista, è un fuori onda. A un certo punto deve vedere qualcosa alla sua destra, nota, che ne so, il passaggio di un gruppo di zingari, immagino, oppure una macchina con degli zingari dentro, oppure degli zingari che fanno qualcosa, non so, e pronuncia queste parole, senti. Come dire, qualcosa in più. Zingari di merda, scusa. Dice anche scusate, però tagliatemi questo zingari di merda che è eccezionale, per favore, tagliatemelo un po'. Cioè, zingari di merda detto dal signor Lo Cicero, catanese trapiantato ormai a Roma da diversi anni. Allora, io ho cercato di pensare a degli argomenti. Va bene anche questo, direi adesso. Allora, io credo che molti pensano e quindi va bene. Allora, ti dico una cosa: io non so la questione di fare l'assessore o non fare l'assessore, quello ovviamente si può pensare. Poi la Raggi deciderà se farli fare l'assessore o no. Certamente uno che dice prima Frocetti e vabbè, e su quello secondo me lo possiamo salvare, secondo te no. E zingari di merda, fai l'assessore a Roma. Certo, se uno dovesse dire è popolare quello che dice, cioè signor Lo Cicero, quando dice zingari di merda, è una cosa che molti di voi condividono? La risposta è sì, caro Parenzo, perché la maggior parte degli italiani non sopporta gli zingari, diciamola tutta. Li considera repellenti, li considera qualcosa di schifoso, qualcosa da cui allontanarsi. Questa è l'opinione comune. Cioè, anche tu, se vedi un gruppo di zingari per strada, lì c'era una sgassata di motore, no? Che si sentiva. Non so non lo dico io. non dici io zingari. Non lo dico, no. Cose anche Mussolini diceva cose popolari. Anche Benito Mussolini ha detto delle cose che erano popolari all'epoca, evidentemente. No, però non è che se una cosa è popolare. No, ma non ho detto che è giusto, non ho detto che è giusto o sbagliato. Sto dicendo che la cosa che dice, paradossalmente, lo potrebbe far diventare molto più popolare di quanto è adesso, sociologico. Sicuramente, sicuramente. Perché dice zingari di merda, adesso non so perché vede dei motorini là, perché c'è un suono di nuovo. Vogliamo risentire un attimo quell'audio? Come dire, qualcosa in più. Zingari di merda, scusate. Ma forse un gruppo di zingari che si avvicina con la macchina e fa rumore. Che cazzo ne so, sarà questo probabilmente. Comunque devo dirti la verità, alla fine ci ho pensato. Sì, appoggio lo Cicero. Assessore a Roma lo Cicero. Una bella ventata di novità, 5 stelle che sono anche un po' di destra. Sì, lo Cicero assessore a Roma. Frocetti e zingari di merda, assessore a Roma. Assessore sì, a Roma. Certo. No, la cosa che mi fa ridere sono tutti quelli della sinistra che hanno votato 5 stelle, no? Per esempio la Ferilli, bello che trovarsi lo Cicero che dice Frocetti e zingari di merda come assessore, straordinario. La signora Ferilli, ieri quasi da statista, è intervenuta al programma Ballarò, sì. Programma Ballarò, sì. E ha detto di avere votato la Raggi, ma c'è molto di più, la Raggi. Sì, a Roma ho votato Virginia Raggi. Ha votato Virginia Raggi. Vabbè, uno potrebbe dire e sti cazzi, no? Cioè, la risposta sì. A Roma ho votato Virginia Raggi. Sembra, capito, che ne so. Cioè, sti cazzi, insomma, la Ferilli ha votato. Sì, a parte che l'aveva già detto. Quindi. Sì, vabbè, ma come? Sì, no, ma hai sentito però la. Benissimo, ottimo, no, ma la prosopopea hai sentito, no? Cioè, sì, ma. Sì, ho votato Virginia Raggi. Certo, Clinton, ma. Perché sarà mai? Dice che sta virando il PD, non lei, dalla sinistra. Questo a me è una cosa che mi fa impazzire, questa roba qua. Cioè, mi fa impazzire. C'è la Ferilli, che è lì tutta vestita bene, attrice, così, che dice la sinistra è il PD che sta virando dalla sinistra. Non io. Io rimango de sinistra. La famiglia comunista, IDS, il PD, più volte ostentata questa passione politica, e vira da un'altra parte, tra l'altro è un partito che dal PD attuale viene considerato probabilmente come il nemico numero uno. Guardi Floris, io penso che chi in questo momento sta virando da un'altra parte è il Partito Democratico, non io, onestamente. Ovviamente era di martedì, non era Ballarò, come avete sentito dalla voce del signor Floris, paragona Renzi allo zar di Russia per tutte le cariche che ha. Posso dire che questa cosa francamente è patetica, cioè attribuire a Renzi una sorta di asso piglia tutto con tutte le cariche. È segretario del PD ed è anche presidente del Consiglio. In tutte le democrazie, diciamo, di un certo tipo, il capo del governo è anche il capo del partito. Succede spessissimo in Spagna, in Gran Bretagna. Non c'è niente di nuovo, al di là delle beghe interne di cui non fotte un cazzo a nessuno dei partiti, no? Cioè, quello deve fare, non può fare il segretario perché non se ne occupa. Ma la gente cosa gliene frega di queste cose qui? In altri paesi il capo del partito è anche il capo del governo, cioè, perché altrimenti se c'è un'altra figura entra in conflitto, no, con il capo del governo, se è dello questo stesso sicuro. Partito, dai, su, ma non è una critica questa, dai. Entrò così a gamba tesa, diciamo così, questo premier, il nostro Matteo anche Renzi. Segretario si può dire, del partito, sì, no, gli davo intanto le varie cariche e incarichi che ha, come c'è un nome che incute timore, come lo zar di Russia. Mamma mia, ragazzi, con gli applausi a comando dietro, qualsiasi cosa dice una persona. No, a comando no. Sono a tutti comando a comando. No, ma ragazzi, non è possibile che qualsiasi persona c'è seduta, sono solo applausi. Cioè, quasi sempre sono applausi. Non è possibile, no. C'è Salvini e ci sono applausi. C'è quello e ci sono applausi. Tutti. Beh, che appunto, dipende quando ci sono ma dai, su, ma non è possibile, dai. Vabbè, comunque, ma che platea divisa? Avete solo te la platea divisa. Cioè, poi dice che Renzi ha attuato il programma di Berlusconi. Un'altra cazzata, questa grossa come una casa. Ma anche se fosse vero, qual è il problema? Poi qual è il programma di Berlusconi? Non sei, sono tutte cose ridicole. Che cos'è il lavoro? Che cosa? Qual è? Lei farà riferimento all'articolo 18. Ma l'articolo di Malaferilli che parla della. Renzi sale e inizia ad attuare un programma che era esattamente quello di Berlusconi. Qualcuno mi dice, gli passa una macchina a 10 centimetri dal culo che gli fa il pelo, evidentemente con degli zingari dentro, ma non è vero perché stava fermo, non gli fa il pelo. Passa una macchina che dà, stiamo parlando di Lo Cicero, eh? Una macchina che gli dà fastidio perché fa rumore e blocca l'intervista, diciamo, perché stavano girando. Vabbè, sti cazzi. Oh. Oh, invece a Ballarò parla un tizio, alcuni giornali titolano stamattina... Ballarò dà del maiale a Trump. In realtà non è che Ballarò dà del maiale a Trump. C'è un tizio che è stato intervistato, secondo me un coglione, che si chiama Ross, che è un ex consigliere di Clinton e di Obama, uno che parla italiano. Cioè, è coglione non perché è coglione lui, ma le cose che dice, cioè, Trump è un maiale, anzi un demone. Ma cioè, questo qua va bene, ce lo può dire, no, che ne so, cioè, poi dico gli ospiti americani, un ex consulente di Clinton e Obama, le grandi analisi politiche, no? Beh, quello è bello. Trump però, un maiale. Ma no, ma va bene per un ospite di un certo tipo. Cioè, se invito, che ne so, un ospite che dice che Renzi è un pezzo di merda. Mauro da Mantova dice che Renzi è un pezzo di merda, per esempio, no? È uguale. Però, è uguale. Scusa. No, però è uguale. Conta quanto, è uguale. Dice, ma conta che... quanto uno scarafaggio. Ma scusa, conterà quanto uno scarafaggio. Ma Trump maiale, anzi demone. Ma è diverso da quello che dice un ascoltatore della Zanzara? No, beh, alcuni ascoltatori della Zanzara. Uguale, identico. Dipende chi lo dice, identico, però, diciamo, identico. No? Più valore. Senti. Cosa rischia il mondo se vince Donald Trump? Oh, ma che posso dire? Donald Trump, direi che Donald Trump è un maiale. Ma questo un maiale? Sì, ma questo è un insulto ai maiali. Quindi no, direi è un demone. Tu capito, ex consigliere di Clinton. No, ma è stupendo, certo che è stupendo, ma non c'è dubbio che è stupendo perché è comico, è un cabaret. Cioè, qua, se l'avesse, adesso di la verità, è stupendo. Se l'avesse detto il povero compianto Gianluca Buonanno qui, quello è un maiale, ma un no, demone. Ma non c'entra, che cosa avresti detto? No, ma non dire che sei veramente un ipocrita, sei un ipocrita. No, sì, sono ipocrita, forse hai ragione, l'avrei spranato. Gli avresti detto sei un coglione, un pagliaccio, eccetera, eccetera. Ti pagano, sicuro, ti pagano per dire queste cose. Questo qua è un ex consigliere di Clinton e Obama, ecco, che è un imbecille. Penso, ma da un punto di vista della ma quello è chiaro, che c'entra? Ho capito. Per quello che fa ancora più. No, ma dai, un maiale è un insulto. Buon anno si aspettava qualunque cosa. Maiale, no? Quindi... insulto a maiale, dai. No, ma voglio dire, da buon anno uno, poverino, pace l'anima. Vabbè, ragazzi, c'è un'interruzione, come sai, aspetta. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. La Zanzara. Allora ragazzi, voglio dire due cose sulla vicenda di Schwarzer, del doping. Adesso io non so come andrà a finire gli anabolizzanti. Lui dice che di aver provato quella sostanza nel 2012, di non aver avuto nessun beneficio dagli anabolizzanti, non lo so. Ricordo semplicemente che ebbi con Schwarzer, indirettamente, durante credo il programma della Toffa, quello su Italia 1, una specie di scontro, perché io dissi una cosa, mi sembrava assurdo per una vicenda di doping così grave come quella di Schwarzer, che avesse preso solamente 3 anni e tot, no? Cioè, secondo me chi ha delle vicende di doping gravi, importanti, deve essere radiato subito, dovrebbe essere ma radiato. Ma come mai sei così cattivo con i ma per me chi fotte il con prossimo gli sportivi, perché no sei con così gli sportivi cattivo, ma la radiazione mica ho detto sei... che deve essere impiccato, ho detto, ho detto semplicemente per che uno chi sportivo che dire, chi fotte non può ma, amico mio, ma più. Se tu usi no. l'EPO e ti fai di EPO per gonfiarti, ma io posso essere d'accordo con te, ma perché sei così inflessibile con gli sportivi e invece in altri campi ma sì, ma chi se ne frega, va bene anche quello, va bene fare la popò dal balcone, va bene ma che fare c'entra la pipì, va bene mica fare si la fa... pipì fare la pipì mica faccio letto. Male a mica faccio male a qualcuno che se piscio dal balcone o piscio io non capisco, scusa amico mio, ma come non capisci? Io ho detto semplicemente che uno che inganna i tuoi l'avversario per vincere in un modo clamoroso, sono d'accordo con te, fotte il paese, cioè, bravo, sono d'accordo, a un certo punto commetti un errore, radiato, secondo me questa è la mia idea, dopodiché benissimo, 3 anni e 3 mesi, adesso non si sa bene se l'ha fatto, se non l'ha fatto, se ha preso questi anabolizzanti, secondo controllo, seconda che io ricordo che lui disse una cosa, è un fallito chi spara sentenze davanti al PC. Sentite, era ottobre. Altra domanda dal web. Pensi davvero di poter vincere le Olimpiadi senza fare uso di Apple? Lo sai che una tua... Lo sai che una tua eventuale debacle ti renderebbe un fallito? Fallito. Sarei molto più fallito se me ne starei a casa davanti al computer tutta la mia vita a scrivere commenti e cose su cose dove so ben poco. Noi sappiamo quello che leggiamo, non diamo la patente di colpevole a nessuno in partenza, certo che ci sono poche persone che poi qualcuno parla di complotto già, no? La seconda volta, quella fiala era già stata controllata, non era uscita niente, è stato fatto un secondo controllo, eccetera, eccetera. Guarda che disse invece a me che lo criticavo. Voglio solo dire, io non conosco questo collega della radio, ma lui che ne sa dei sport di alto livello? Lui fa il tappascione, scusatemi, però... Lui che sa di controlli? Luciani, hai sentito? Lui sa cosa sa di controlli? Secondo me ti risponde alla zanzara sulla radio. No, prego, prego. Allora, io farò pure il tapascione, cioè correrò per divertimento, eccetera. Questo è il significato della tapascione, però non mi sono mai messo una siringa dentro il braccio, cioè non mi sono mai messo una siringa dentro il braccio per farmi di Epo, cioè meglio restare come dire, come dice lui, tapascione piuttosto che farsi di Epo, farsi di anabolizzanti se poi questa accusa sarà confermata. Allora, dove andiamo? Andiamo a Firenze, Luciano, vai. Dimmi Luciano, dimmi. Buonasera, senta, io volevo parlare, lo ritenevo un programma abbastanza serio questo qui, però più l'ascolto sì. E più mi fate incacchiare. Perché? Mi dite perché fate da megafono a questi mezzi attricetti, mezzi artisti, mezzi scrittori che sono tutti arrivati alla ribalta per via che hanno avuto le tessere giuste nel momento giusto. Ma chi sarebbero perché questi? Chi sarebbero? Come quella che dicevi prima, la Ferilli e compagnia. La perché Ferilli, ma non è che l'ho intervistata, amica mia. Era gente che quelli non potevano, non avevano nulla da dire dalla vita, solo perché hanno avuto le tessere e l'hanno sapute sfruttare. Ma Luciano, si fa dare ascolto alla gente come me che sì. Ha lavorato, lavora 60 anni, Luciano. Ha pagato 40 anni come sì. Un cretino e questi fanno la prosopopea. Ma dove stiamo? Sì, Luciano. Ma cosa hai in testa, Luciano? Cosa c'hai in testa? Vabbè, ma adesso cosa c'ho? Che mi sono rotto gli ogni di pagare i soldi perché ma quegli altri me li mangiano, Luciano, primo non l'abbiamo intervistata noi, ma l'ha intervistata di martedì, primo, e noi l'abbiamo fatta semplicemente risentire. Ma gli avete fatto da megafono? Ma che megafono è la tua sorella, che la conoscono tutti, fa da megafono. No, gli avete fatto da megafono, questa gente l'ha ignorata perché ha mangiato alle spalle dei lavoratori, hanno distrutto il lei, amica, non l'ha mantenuta nessuno, fa... Fa l'attrice! Ma che dice? Del PC di tutta la gente. Tutto l'Italia. Vota per la sinistra, mica è un delitto, dai, su, ragazzi. Sì, vota per la sinistra. Lei voterebbe per Ma la tua sorella che fa? La tua sorella che fa? E un ce n'ho sorelle io. Che ne so, Parenzo dice la tua sorella. Parenzo è un testa di cazzo, uno che un piscia in una doccia, quando fa la doccia vuol dire che è un testa di cazzo. Cosa ci vuole ragionare? Questo potrebbe essere testa di cazzo, non lo so, però sicuramente non è normale uno che non piscia sotto la doccia. Cioè, mentre fa la doccia, che più perdi tempo a ragionarci. Ecco il lord inglese. Ma scusa, perché? Scusa, Luciano, tu pisci. Ma che c'hai? Un cervello fatto di chianina, Dio Bono? Ma che c'hai in quella testaccia ruvida? Che c'ho quello che fanno tutti gli uomini che hanno... Quello che devono avere quando sono sotto la doccia, pisciano nella doccia. Le donne uguale, pisciano nella doccia. Ma tutti. Ma sei uno schifoso te, sei uno schifoso. Sì. E lo fai anche te, perché mi garberebbe venire a firmarti mentre fa la doccia. E non lo vuole dire. E non lo vuole dire. E non lo vuole dire. e non lo vuole dire. Vabbè, ma la Ferilli almeno ti piace, Lucia? Almeno ti arrapa un po', o no? Ma è certo che mi arrapa, non è mia brutta. Però il discorso è questo, io dicevo in generale. In generale. Come lei ce n'è. Vabbè, decine, ma quella mica decine, è mantenuta. Vabbè, di sinistra. Che devi. Ma hanno fatto fiancheggiatori. Ma che fiancheggiatori? Quelli erano i terroristi, sì, fiancheggiatori. Fiancheggiatori. I fiancheggiatori. Con le chiacchiere e tutto. Con le capito? Chiacchiere, con le chiacchiere. Ciao, Lucia. Ciao, ciao, ciao. Siamo al top. Siamo al top. Bye bye Europa. Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Amore, metto sul podcast della Zanzara, va bene? No, dai, ma perché devi fare così? Ma che palle! La Zanzara, amore, il podcast! No, dai, ma che due palle, lo ascolta sempre mio padre! Cruciani, hai definito la signora Boldrini la signora presidentessa della Camera. Ti stai boldrinizzando anche tu? No! Oh, vi ricordo che nei giorni scorsi la nota vegana animalista Daniela Martani, sai chi è Parenzo? Inutile te lo ricordo. Sì, me la ricordo, come no? Come no? Che ha preso circa 130-140 voti alle elezioni comunali a Roma nella lista dei Verdi, ci ha detto che si può vivere tranquillamente, la donna può stare tranquillamente senza trombare, insomma, senza questo scopare. È vero, no? Questo lo ha detto anche il nostro dottor Bossi. Sì, esatto, lo ha confermato anche lui. Dice, cioè, più dell'uomo la donna può stare senza fare sesso. È uscita una roba della BBC in Inghilterra, che recita in questo modo, te lo dico in maniera molto chiara. Ne abbiamo parlato anche una volta alla Zanzara, perché noi abbiamo esplorato naturalmente tutte le dimensioni, tutte le, come dire, tutte le propaggini del sesso. Esplorato tutte le dimensioni, è meglio non dirlo. No, abbiamo esplorato tutte le diramazioni del sesso nelle sue varie, no, nelle sue varie declinazioni, come sai, no, in questi anni. Sì, sì, sì. Allora, è uscita una statistica che pare abbastanza affidabile. Asessuali, in aumento il numero di chi non fa sesso. Secondo la BBC, una percentuale simile a quella dei gay, capito? Cioè, sostanzialmente, che sono circa tra il 5 e il 10% della popolazione, ci sarebbe un'analoga percentuale di popolazione che non fa sesso, cioè che vive tranquillamente senza soddisfare uno dei bisogni primari dell'uomo. E che vuoi fare? È così. No, mi ha fatto pensare a questa cosa della Martani dell'altro giorno, no? Che sostanzialmente ci ha detto che non fa più sesso. Cioè, ma d'altra parte, quando uno diventa vegano, si vota a qualcosa, no? Sì. No, ma è vero che comunque le donne hanno un istinto, come dire, hanno meno bisogno. Ma non è vero, dai, ma non è vero. Dirti, ma ragazzi, ma conosco certe. Ma non ne conosco certe avvelenate come delle bestie, ma queste gli ambienti che frequenti tu per forza. Molto più avvelenate degli uomini, molto di più. No, ma voglio dire, una donna, mentre un uomo anche. Vede, no? Quando dopo un po'. L'ha spiegato il dottore, quando dopo un po' non fa quella cosa lì, non fa l'amore. Si capisce dopo qualche giorno, settimana, ti succede qualcosa fisicamente, no? Ma non lo so, questo lo dici tu. Io, ripeto, ne conosco tante talmente avvelenate che faccio fatica a distinguere tra questa cosa. Però mi fido del dottor Bossi, mi fido degli scienziati. Però ti voglio far ascoltare qualche cos'altro. Perché qui c'è una questione bizzarra. C'è un problema della Brexit. Non parliamo. Ma che Brexit? Oggi è mercoledì e domani chi se ne frega? Ne parleremo domani, quando ci saranno i risultati. Approfondiamo domani. Quando ci saranno i risultati. Allora, c'è un gruppo islamico estremista, pare indiano, comunque radicato anche in Italia, che sostiene che l'Occidente ormai è fallito e va curato con il Corano. E fino a qua chi se ne frega. E questo lo dice anche Massimo Fini, questo comunque. Beh, non è vero, non dice che noi andiamo curati col Corano, Massimo dai. Fini dice che l'Occidente è vabbè, morto, dice vogliamo la poligamia, cosa cambia avere tra avere due mogli legali e tre amanti come fate voi? Beh, insomma, è un po' diverso avere l'amante oppure avere tre mogli. No, però nei c'è non è diverso. No, non dire cazzate, dai, su, è diverso. No, però c'è un elemento, questo signore che si chiama Hamid sostiene una cosa piuttosto bizzarra, cioè non possono, ti assicuro, cioè, su tutti i siti, su qualche sito, in realtà non è stato facile nemmeno trovare questo audio, non possiamo prendere il pisello con la mano destra. Cioè, adesso, ti giuro, ragazzi, lo dice lui. Cioè, io non so. No, ma non riesco a capire cosa vuol dire meccanico dal punto di vista pratico, fattuale. Che non puoi prendere il pisello con la mano destra. Tu come lo prendi di solito? Con la mano destra, quando vai a fare la pipì? Adesso io ti ringrazio che entri nel merito come io. Ma non è che adesso sembra che lo facciamo apposta. C'è un signore islamico presente su diversi siti, italiano, che parla italiano, di un gruppo che si chiama Fracazzo da Velletri, Tabligh e Dawa, Tabligh e Dawa, il quale sostiene che non prende pisello, che secondo loro non si può prendere con la mano destra. Che ti devo fare io? Sentiamo. Non possiamo prendere pisello con la mano destra. Vogliamo lavarsi sotto, c'è un'indicazione del profeta. No, questo è bizzarro, c'è un'indicazione del profeta. Però non ho capito il profeta indica, secondo questo tizio, ci sarebbe un'indicazione del profeta, secondo la quale non si può prendere con la mano destra. Però c'è un'aggiunta che ha fatto, adesso me lo rimandate in onda un attimo. Rimandatelo un attimo. Non possiamo prendere il pisello con la mano destra. Vogliamo lavarsi sotto. C'è un'indicazione del profeta. Ah, aspetta. Prima bisogna lavarsi sotto, forse, dice. Vabbè, quello bisogna farlo comunque, credo. Ah, per lavarsi sotto c'è un'indicazione del... Non ho capito bene. C'è un'indicazione del profeta. Cioè, se uno si deve lavare, evidentemente deve... Boh. Carlo da Roma, vai, Carlo. Ma vai, Carlo. Carlo? Carlo? Carlo? Carlo? Carlo? Carlo? Carlo? C'è il rimbombo sei e basta. Sei tu quello, ci sei tu due volte. Lo so, ci sono io che rimbombo. Tun tun tun tun. Lucio Messina, vai. Lucio? Sì, Lucio. Dimmi Lucio, dimmi. Allora, diciamo, allora fa, andiamo però veloci, ragazzo, vai. Un anno fa ho subito in casa un furto, sì? Da parte di Roma. Sì, ti hanno rubato i Roma in casa. Vabbè, è una cosa... È successo a diverse persone in Italia, anche furti da parte di zingari, rom, anche italiani. Purtroppo rubano nelle case. Dunque? Addirittura mentre dormivo, sono stati fortunati perché sì. Il cancello quando si apre fa un notevole rumore. Sì. Però siccome dovevano rientrare ancora mia moglie e mia figlia, sì. Pensavo che erano loro e mi sono riaddormentato. Ti sei riaddormentato, sì. Dunque? Dopo un po' sono arrivati mia moglie e mia figlia, sì. Pochi minuti dopo questi sono scappati. Rubando due biciclette. Dunque? Io parlo dalla caccia ai rom. Come? Non ho capito? Do la caccia ai rom. Tu dai la caccia ai rom? Che vuol dire che dai la caccia ai rom? Io la mattina esco in bici in allenamento. Sì, però parla più forte perché non ti capiamo bene. Dunque, perché è interessante quello che dici. Dunque, un anno fa ti hanno rubato a casa. Che ti hanno rubato alla fine a casa? Due biciclette, due mountain bike. Due mountain bike. Quanto costavano queste biciclette? Beh, sono stati sicuramente dei rom perché il loro valore era di 500 euro totali. E non lo sai nemmeno se sono stati rom? Che ne sai che sono stati rom? Se ero un italiano rubavo la bici da costa e tutta 10.000 euro che avevo là accanto. Ma chi gliel'ha detto? Vabbè, comunque lui pensa che siano stati rom. E da allora tu dai la caccia ai rom. Che vuol dire, scusa? La mattina quando esco per i miei allenamenti in bici, sì. Ne vedo qualcuno di questi in giro. A parte che hanno rubato tutta l'illuminazione della superstrada. Hanno rubato l'illuminazione della superstrada. Devo tradurre perché purtroppo si sente poco. E dunque, Lucio, non ho capito. Che vuol dire dai la caccia? Che esci col fucile in mano? Non ho capito. No, fucile in mano. Se li becco e vedo fare qualcosa di strano, che stanno rubando, che... Che fai? Sono le cazzo di cose, li corchi di mazzate. Ma nessuno ti dice niente, non so, forze dell'ordine, cose, qualcuno. Che deve dire? Cioè, ma quante volte devi dire? Ma non è normale. Quante volte ti è successo che hai corcato di mazzate un rom perché l'hai trovato, che ne so, che rovistavi in un cassone? Mi è successo tre volte. Tre volte. Che mazzate gli hai dato? Come gli hai date queste mazzate? Con le mani. Con le mani. Cioè, hai preso presi a pizza i rom. Ma quanti anni hai, Lucio? Cazzate, 59. Tu a 59 anni questi qua magari ti fanno un culo così o no? Magari. No. Ma io sono sono addestrato al combattimento, quindi. Pure. Ma perché non ti metti direttamente qua a Mimetica, tipo Charles Bronson, a fare la caccia a Roma seria, quello col mitra in mano? No? Una volta ce l'avevo la Mimetica. Ma esci direttamente così a questo punto, no? Cioè, che bisogno c'è? Invece di... Perché non prende anche delle granate, ad esempio? Delle belle granate, delle cluster bomb. Ma questo non sta scherzando, sta dicendo sul serio che va a caccia di Roma. È un dramma, questo infatti è un dramma vero. Una persona... no, scusa, 59 anni, tu che cazzo fai? Sei un baby pensionato già da anni, non fai una mazza dalla mattina alla sera? No, non sono un baby pensionato, sono pensionato, sono stato... pensionato a 59 anni significa quando sei stato pensionato? 3, 4 anni fa, 5 anni fa? Baby pensionato, dai. No. No. Pensionato a 40 anni. A 40 anni, e che? A 40 anni che è? Non è baby? Avevo subito delle ferite, quindi non potevo più lavorare. Vabbè, ferite. Comunque, vabbè, Lucio, sostanzialmente non fai una mazza da 40 anni, poi per carità sarai anche in situazione... No, da 40 anni. No, da 40, da quando avevi 40 anni. Dunque, non hai un cazzo da fare dalla mattina alla sera, diciamolo tutto. No. Diciamo, questi mi hanno rubato in casa. Sì, vabbè, questo l'ho capito che ti hanno rubato in casa. Sono l'illuminazione della strada. Prendono i cassonetti e li rovesciano. Sì, ma l'hai trovate queste biciclette alla fine o no? No, non l'hai trovate. No, se le vedo le riconosco senz'altro, però loro... Cioè tu esci la mattina e come obiettivo della mattinata è dare la caccia ai Rom. No, il mio obiettivo è allenarmi, però se ne incontro qualcuno che... Boh, ma corca mazzate, mazzaroccate. Quei due li ho trovati accanto al lampione, sì. Gli ho detto andate via, e invece loro mi hanno cominciato a insultare, non mi hanno aggredito. Vabbè. Io non menare. L'hai menati, vabbè, Lucio, arrivederci. Carlo possiamo. Roma, vai, Carlo da Roma. E che devi dire? Possiamo forse segnalare il tuo nome alla procura. Di ma perché devi segnalare il nome alla procura? Ma scusa, ma questo qua che male ti ha fatto? Sta, va là, se vede dei Rom che rubano, gli dà due corcate, due che mazzaroccate. No, se rubano, perché è normale che uno chiama la radio, dice che aveva la mimetica, che gli hanno rubato... No, la mimetica gliel'abbiamo detto noi, la mimetica... Un cazzo di mountain bike, che forse manco gliel'ha rubato il Rom, perché magari è stato qualcun altro. Ma saranno cazzi suoi, dai. Che uno va lì sotto un lampione, vede due la mattina e li mena, perché dai, è tutto normale tutto questo. Carlo Roma, vai. Eccolo, buonasera Giuseppe. Dimmi, buonasera. Dimmi, che è successo? Niente, io sono d'accordo con lo Coco che... Lo Cicero, non lo Coco, lo Coco, che fai Parenzo? Lo Coco, uguale, dai, mi sta guardando, Cicero, io sono d'accordissimo con in lui. In che senso, dai, zingari però... di merda? Sì, zingari di merda, puzzano, fanno schifo, capito? Io sono d'accordissimo, magari la Raggi... Magari sì, spero veramente che la Raggi lo faccia assessore. Cioè tu vuoi lo Cicero assessore tutto. A Roma, così stermina sì, tutti? Sì, sì, tutti i zingari, dopo i zingari speriamo che vengano gli ebrei. Eccolo qua. Perché gli ebrei sono da sterminare, non ho capito. Sì, sì, e invece ha provato Mussolini, non c'è riuscito. Che c'è ma veramente qua, più Hitler ci ha provato, anche Mussolini ha dato il solo tempo. Ci hanno provato, però ci sono riusciti. Per gentilezza, possibile avere il... Il numero del telefono? Sì, 344 sono io, mica c'ho un problema. Sì, no, aspetta un attimo, aspetta, che sto prendendo una penna così. Sì, Carlo. No, aspetta un attimo. Ma tu probabilmente stai scherzando, Carlo. Tienilo in linea cruciale ancora. Ma perché che cambia fra i zingari e l'ebrei? Che cosa cambia? Dimmi il numero 344. 344, sì? Sì. 29 61 830. 29 61 830. Ma se la chiedi alla regia te lo danno, se la chiedi alla regia te lo danno subito, se tu lo chiedi alla regia te lo danno. Aspetta, fermo un attimo, fermi ragazzi, se da lei che è un pezzo di merda è meglio. 344 29 61 830, lei si chiama gentilmente? Carlo, stupida creatura, zitto. Carlo, stai zitto. Carlo, benissimo. Carlo, le faremo sapere al più presto, dopo la pubblicità continuiamo. Intanto 344 29 61 830, Carlo pezzo di merda, perfetto, adesso vediamo subito come andare avanti. Grazie. Beh ragazzi, io quando ascolto la Zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Traveling, rolling, jamming, back, she'll ride by the blue Corvette. Non sono animalista o niente, ma questi che incignano i conigli e i gatti sono dei grandissimi figli di puttana, veramente, eh? Altro che miserabili quegli altri, questi qua sono miserabili. Allora ragazzi, eravamo con Carlo da Roma, però se Carlo, che ha dato pure il suo numero a Parenzo, vuole semplicemente dire che brucerebbe, eliminerebbe Zigger e De Bray, di che stiamo a parlare? Cioè, abbiamo segnalato, Parenzo si è preso il numero, facesse quello che vuole, ma non mi pare una cosa, Carlo, come dire, particolare. Ma no, dimmi, cioè non c'è niente di... Ecco, dimmi, se... Non è che c'è, non c'è niente di particolare, sono troppo sporchi, troppo sozzi, troppo tutto, fanno tre di tutto, come hanno fatto gli ebrei, uguale che hanno ma fatto. Ma cosa c'entra? Ti quando... Io cerco di trovare... Continui pure, aggravi ancora. Facevi la propaganda che bisognava, chi c'era, chi ha fatto la cosa, il battesimo, se uno si vola levare il battesimo, come era tutto contento Parenzo. Beh, ma che c'entra? A parte che non era contento per niente, anzi era contrario, non hai capito niente. No, era a favore. Devo levare il battesimo. Ma quello che c'entra? Ma che c'entra? Non me ne frega nulla. Se te levi il battesimo diventi ebreo come lui, no? Sì, vabbè, dai, Carlo, arrivederci. Dai. Ciao. Lei pagherà caro. Ma vabbè, di altre due parole a Parenzo. No, io caro tutto. Carlo, che cosa vuoi dire? Se vuoi dire qualcosa di violento nei confronti degli ebrei, dimmelo tu, Davide, io non so che dire. Fagliele dire, così completiamo il quadro. Vai, sì, Carlo, sì. Prego. La cosa sua c'ha del bello, Parenzo. Prego. Che cosa c'ha? La compagna. Vabbè, ma quello, dai, vabbè, la compagna è stupenda. Adesso. La compagna è stupenda. Hai visto com'è geloso, come farcicero pure quando mettono. E vabbè, è geloso, vabbè, come. Io denuncio la regista. Io denuncio chi c'è schema. Ma denuncia, 4, 2, 9, delle cose. 1, 8, zitto, fermo. Ciao Carlo. Ma che c'entra, mamma mia, ma che ragionamenti fai? Che voci sono? Ma che schifo, dai. Ah ragazzo, Carlo mio, comunque hai detto una cosa, numero di telefono, mi sembra che ce l'hai Parenzo, sì? No? Il numero, no? Tutto. Guarda, ti assicuro che da domani pubblicherò la... Ma quello dice che scherzava magari, no? No, quello sua madre scherzava quando l'ha messo. No, dice lui, dice lui. Sì, ma intanto l'ha detto, poi intanto un accertamento lo farà, poi vediamo se scherzava, vediamo. Sergio d'Aosta, vai, Sergio d'Aosta. Riapriamo le gabbie ancora, vediamo. No, calma, Sergio d'Aosta, dai. Sergio, sono qua. Dimmi, Sergio. Senti? Sì, e ti senti, amico mio? Sì, dai, forza. Sì, ho un po' di ritorno, comunque non fa niente. Intervenivo in merito alla mano sinistra e alla mano destra, che si toccano i genitali praticamente. Io negli anni 90 ero separato, sì. A prostitute ci sono sempre andato, sì. Adesso ovviamente sono anni che... Comunque ho avuto una serata con una nigeriana. Sì. E quando l'ho vista lavarsi, la nigeriana, signora nigeriana, senza pudicista davanti a me o meno, ho visto che ha usato questa mano sinistra, sì. E tenendola ben discosta. Comunque, io chiedo, non ho capito, ma quello riguardava la masturbazione. Ma sembra normale telefonare alle 19:39. No, ma non ho capito in che cosa c'entra. Radio nazionale. No, ma aspetta, per aspetta. Per raccontare che lei andava a prostitute negli anni 90. Negli anni 90, e per raccontarci che una prostituta si è lavata nigeriana davanti a lei con la madre. Lei è siamo ormai, io non so più veramente. No, veramente, no. Io potevo anche girarmi, ma non c'era possibilità. Posso continuare o... Sì, no, Sergio, ma potevi girarti. Ma il tono della voce che lei allora, ha, che usa per raccontare con normalità. No, però Sergio, non credo che Sergio, sia il fatto che io andassi no, ma infatti è Parenzo che si riguarda la mano. Ma la mano di la frase no, di quel tizio islamico di prima, in realtà era la masturbazione maschile, non femminile. Sì, ma volevo dire qualche cosa. Ma perché parli di mano sinistra tu? Non ho capito perché parli di mano sinistra. È stata educata in una missione in Africa. Chi? Questa donna chi? Questa nigeriana? Questa nigeriana. Ma che ne sai tu che te la sei sposata dopo? Che hai fatto? No. Amico, ci hai parlato del fatto che è stata educata, ti ricordi? È stata una serata, l'ho riportata, ero da Aosta, l'ho riportata a Torino perché lei doveva aspettare un'altra, un gruppo di ragazze che sarebbero arrivate, era in ritardo, insomma non so se posso continuare a farla complicata, ma non credo. No, comunque, ma è curioso che tu vai con una prostituta nigeriana d'Aosta, dopodiché la riporti a Torino, cioè, l'ho portata a Torino. No, no, per carità, va bene tutto, va bene, ok, va bene. No, e ti ha raccontato durante il viaggio, ti ha raccontato di questa roba. Sì, esatto. Ma io non ho ancora capito, non ho ancora capito. Cosa esatto? Che la mano sinistra è la mano del diavolo. E beh, ma che c'entra? Quella è la mano destra. Credo che sia, eh? Quella è la mano destra, in realtà. Cioè, No, la mano sinistra. Ho detto, gli dicevano di usare la mano sinistra per toccarsi il genitale, per lavarsi le parti, diciamo, ignobili del corpo, se vogliamo. Perché la mano destra la mano sinistra, perché quella era la mano del diavolo. Questo è stato il è stata la frase che questa ragazza. Va bene, Alessio da Bologna, non c'entra niente con i musulmani, comunque vabbè. Alessio da Bologna, vai. Sì, ciao. Vai, dimmi. Io volevo parlare della nazionale di calcio. Dimmi, si gioca, che gioca stasera. Sì, no, perché l'altro ieri Salvini è intervenuto qui da voi, no? Sì. E ha detto che lui fa un po' fatica a tifare l'Italia. Sì, dice che tifa più il Milan dell'Italia, dice che non vuole gli oriundi in nazionale, ne vorrebbe di meno. Volevo dire che sono completamente d'accordo con lui. Anche tu non tifi l'Italia, ma è un diritto non tifare l'Italia, chi se ne frega? No, cioè, perché come lui? Come lui? Anche io tifo Bologna, cioè io tifo Bologna, solo Bologna. E vabbè, ma a noi che cazzo ce ne frega se tu tifi Bologna e non tifi l'Italia? Scusa, perché ci dovrebbe interessare il fatto che tu non tifi l'Italia e tifi Bologna? Non ce ne frega nulla. Per carità, che l'avevo detto Salvini. E vabbè, lo dici anche tu, io tifo Bologna e mentre l'Italia non me ne frega niente. Io conosco un sacco di gente che tifa per la propria squadra. In Italia c'è questa roba qui. È uno dei motivi per cui non indossiamo le magliette. No, ma chi se ne frega? C'è il diritto anche a non indossare la maglietta. Adesso c'è tutta questa campagna sulle magliette, che è anche un po' patetica, devo dire. Cioè, sì. Noi non abbiamo mai l'usanza di mettere la maglietta della nazionale, perché tifiamo più per la nostra squadra, diciamo, della città, che piuttosto che per la nazionale. Normale. L'Italia dei campanili. Normale. No, non è normale, è lo specchio di un paese che è ancora legato ai municipi. Ma ai sì. Ivan Catania, vai. Alessio, al Medioevo. Ivan Catania, vai. Sono in linea? Sì, più o meno, sì. Se allora, parli con me sei in linea, sì. No, siccome ci sono le altre chiamate. Vabbè, comunque. Allora, ieri il tono della chiamata è un po' goliardico. Volevo condividere alle 19.43 che ieri sera una mia amica mi ha raccontato che si fa la ceretta delle gambe con la carta vetrata con cui si casteggiano, sai, i muri. Io cioè, non lo so, allora, io non lo so. Scusami, mi dai il telefono della tua amica? Assolutamente sì, un attimino, però un attimo devo prendere qui dal cellulare, un secondo. Sì, però dallo alla regia, non è che si può dire in diretta il numero della tua amica, però adesso ti richiamiamo, ci dai il numero, però non l'avvertire prima, prima. Cos'è che si toglie i peli dalle gambe? Non ho capito. Con la carta vetrata. Cioè la carta vetrata, quella le che tazza. Si... No, ma io ho cercato, siccome non le credevo, io ovviamente le ho detto, beh, mi stai prendendo per il culo, perché sai... ho cercato su internet per vedere se questo metodo esisteva, non lo so, no? Esiste, io non lo so, non mi tolgo i peli dalle gambe. Sì, no, nemmeno io. Esiste veramente, ho trovato su internet un forum, non lo so, cose del genere. Vabbè, che, sì. Che è vero. Ma io non lo so, lei usa quella che usano i... non lo so, i muratori. Carta vetrata. Si toglie i peli con la carta vetrata. Mi ha detto pure che viene benissimo, non fa male. Non lo so, a me sta cosa mi ha fatto morire da ridere. Io volevo condividere con l'Italia, se era possibile. Ma che peli c'ha questa? Che peli c'ha? Non peli normali, è fuori una bella ragazza, non è questa. È anche molto giovane, avrà tipo 25 anni, non lo so. Ragazzi, non lo so, cioè io sono quanto... che ti devo dire? Si toglie i peli con la cosa, con la carta vetrata. È un tema di primissima qualità. No, che c'entra? Io so, siccome di lei la zanzara, io di politica non ne capisco niente, almeno... No, ma tu hai fatto benissimo, Io sono in linea con la trasmissione, infatti. No, ma tu hai fatto benissimo, è Parenzo che si stupisce. No, per carità, anzi, fai benissimo a chiamare. Anche perché se la trasmissione non fosse questa, probabilmente non l'avresti chiamato, Parenzo, a fare il precisino, no, ovviamente. A fare? Se la trasmissione non fosse fatta così, no? Probabilmente Parenzo non l'avresti nemmeno chiamato a fare il precisino. Ma guarda, è una storia molto... No, attenzione, io da Parenzo ho imparato un sacco di parole belle, butad, cloaca, perché io seguo il podcast ogni giorno, è una cosa... Io ho imparato un sacco di cose belle da Parenzo, però è ovvio che... Vabbè, ciao amico mio, ciao. Then you take it away. eccoci, Giampiero Mughini con noi, buonasera. Buonasera, buonasera cari amici. Come ecco. Andiamo? Come andiamo? Come tutti. Siamo in attesa. Né bene né male. In attesa della partita dell'Italia, però vabbè, chi se ne frega stasera alla fine pure, no? Cioè... No, beh, il calcio no. È bello sempre. Sì, sì, sì, partita abbastanza inutile. Senti, Giampiero, Saviano ha esaltato la cellulite delle donne, dicendo che la cellulite è bellezza. È una vecchia questione che riguarda le modelle cosiddette curvy, cioè quelle con... Non è una cosa nuova quella che ha detto Saviano, perché da tempo si discute del fatto che molti pubblicitari mettono, no, utilizzano delle modelle un po' in carne, diciamo. Lui dice: le modelle in carne è una cosa, la cellulite è una cosa diversa. La cellulite è una malattia della pelle, è un difetto, è una non bellezza. L'abbondanza di volumi è un'altra cosa. C'è chi predilige quest'ultima cosa, però la cellulite io non avevo mai sentito l'esaltazione della cellulite, meno che mai se fatta, mi pare, con l'aria di uno che la s'allunga, ecco. Cioè, dici Saviano, dici, no? Sì, mi sembra che lui abbia sempre l'aria di uno che la s'allunga, io gli auguro tutto il bene possibile, certo. Nei occhi ed è quasi sempre di una banalità sconcertante, lo è anche in questa occasione, perché mi pare che lui voglia dire la bellezza non è quella necessariamente delle bellissime, ma può essere anche la bellezza di altre a modo loro, ma certo che è così, però non ci farei sopra un post, ecco. Uso questa parola lavandomi subito la bocca dal post, perché, diciamo, dalla parola post, ma diciamo, la parola post che ti fa schifo, che ti fa schifo, diciamo la verità, cioè la parola post ti fa, tutto quello che riguarda internet ti fa schifo, cioè vivere, tu potresti vivere tranquillamente senza, io vivo senza, è curioso, però ben inteso, ho un computer, ho un telefonino, eccetera, ma potrei vivere benissimo senza. Adesso ho passato il pomeriggio leggendo un libro molto sono meglio felice di aver fatto questo. Ecco, però a te, diciamo la verità, se una donna mette su dei chili, non mi piace. L'effetto che ti fa è di orrore. È assolutamente di orrore. Naturalmente vale l'inverso, se io metto su la panzetta, la mia eventuale compagna ha il diritto di chiamare la polizia, questo non c'è dubbio. Cioè, tu dici più no, ma ha ragione Giampiero, cioè bisogna curarsi di se stessi. Io stesso, ad esempio, sono stato minacciato, posso svelarlo, dalla mia compagna che mi diceva: guarda che tu ormai hai 40 anni e stai invecchiando, vedi di darti da fare, di fare un po' di palestra. E infatti mi sono iscritto in palestra. E tu hai obbedito, obbedito fedelmente. Certo, perché capisco effettivamente che avere vicino uno magro con la panza a 40 anni faccia schifo. E quindi non c'è dubbio. Si prende cura di se stessa, ma e sì, per ho me. Capito. Ma siccome lei si prende cura di se stessa, anche io però, non c'è dubbio. Però scusami, è una banalità sconcertante. A te come piacciono le donne, Giampiero? Cioè, ti piacciono smilzie alla fine, cioè magre? Sì, assolutamente. Io dico quello che è necessario in una donna. Ci deve stare tutto, ma entro alla cornice della snellezza, della rapidità, dell'agilità fisica e poi naturalmente di quella che io con termine elogiativo dico sgualdrineria, cioè la seduttività molto smaccata, insomma il voler apparire, perché se una donna non fa questo, insomma, il Dio si scoccia, il Dio ha reso le donne belle per questo. Tu dici una parola molto, mi sembra di aver letto da qualche parte, più sono troie meglio è. Sì, in questo senso qui, naturalmente, in che senso, io troie? Uso il termine troia come un grande elogio, naturalmente. Beh, questo è fondamentale, c'è l'elogio della troia. L'elogio della ragazza smaccata, appariscente, che conosce il valore del suo corpo, che valorizza questo corpo, mi sembra talmente evidente, non è che scopro l'America. Poi sai, per me esiste una donna al mondo, una donna, la donna che creò l'uomo, Brigitte Bardot. Allora quando dico io troia mi riferisco a quella cosa lì. La troia, cioè il concetto di troia è legato al fatto di essere, come dire, di fare sesso, cioè di essere proprio... No. Di essere seduttiva, attraente, attirante, stuzzicante. Cioè la donna ha da essere troia, diciamo la verità. Ma in questo senso qui, quando uno dice troia, senso qui, perché sennò non ci intendiamo. Lui certo dice in quel senso provocante, che assolutamente quel shant, quel profumo, quel tanto, più è meglio è. Lo so, ho capito, però la gente capisce male, no? No, cioè... non capisce male, perché se la gente... Non è che uno può stare all'uso da babbei dei termini, deve capire termini, cosa capito, vogliono dire. Amico mio, però se uno dice troia, tu capisci... No, se uno dice troia e lo spiega in che senso, vuol dire, ragazza, è inutile che lo ripeta per la centesima. No, guarda, ti dico di più, perché io anni fa lessi un articolo straordinario di Giampiero Mughini sul Foglio, dal titolo, dimmi se non ricordo male, Marina Ripa di Meana, virgola, professione troie. Sì, assolutamente. Marina, che è una mia grande amica, è il simbolo di tutto questo. Lei è stata seduttiva mille volte. E quello, vabbè, poi è inutile, sappiamo no, tutti. L'articolo no? Era meraviglioso, lo consiglio di Marina, Marina, le foto di Marina da ragazza, tu rimani con la bocca aperta e la gente rimaneva con la bocca aperta. Lei sapeva che cos'era, lei, il suo corpo, lo esibiva, accidenti. Mi permetto di dire, non solo con la bocca aperta, Sì, ma quello è banale. Sì, vabbè, sarà banale. È più che sufficiente dire con la bocca. Sarà pure banale, ma ecco. Senti, ma come si risveglia? Come ti risvegli nella Roma grillina? Nella Roma non grillina. Mi fa né caldo né freddo. Non te ne frega naturalmente nulla. Che non influirà in nulla nella mia vita quotidiana, nel mio essere romano, nei problemi, nulla, non cambierà le bollette, nulla. I pagamenti, i ritardi, gli ingorghi, non cambierà nulla di nulla. Ma sei sicuro di questo? Vogliamo fare una scommessa? No, ma anche secondo me, perché in generale i sindaci... Vogliamo fare una scommessa? Beh, dovrà fare qualcosa per forza, però. Ma per esempio, dinne una. No, ti auguro per la spazzatura. Per la spazzatura cosa fa? che la raccoglie che lei? No, ma dai, su via. Prendiamo l'ATAC. L'ATAC è un dato. Ci sono 11.000 dipendenti. Bene. Sì, sì. Non hanno il personale di che controllare il pagamento dei biglietti sul bus. Beh, sì. Bene. Facciamo una scommessa? Facciamo una scommessa che la simpatica ragazza, la simpatica fanciulla, anzi io l'ho definita la magnifica fanciulla perché sono un galante, è vero che è divenuta sindaco, naturalmente non potrà fare nulla contro questa situazione, contro la quale non potrebbero fare nulla forse i carri armati di Hitler, ma forse. Perché io sono d'accordo con te, secondo me andrebbe chiusa domani mattina e riaperta fra un mese, l'ATAC si può solo bombardare con tutto quello. Sì, ho capito, ma dopo che l'hai bombardata, però come viaggi? In funivia, come ha proposto Raggi? Per 15 giorni, secondo me, Roma deve essere senza mezzi pubblici, straordinario. Ho capito, ma poi al 16° siamo punti da capo. Chiudi tutto, io voglio chiudere tutto. Ma non è possibile, perché nel frattempo, a parte il fatto che 15 giorni passano presto, vanno portati i libri in tribunale, amico mio. E dopo che la città fallisce come comune, ma è già fallito, pensi che la situazione sia meglio? È già tutto fallito lì. Non c'è scampo, basta partire da questo principio. Ma tu la prendi un autobus a Roma ogni tanto o no? Beh, io non so guidare, quindi lo prendi o no? Ma è sempre. Ti fa orrore o no? Beh, ragazzi, insomma, è un'esperienza molto dura, ma d'altra parte un'esperienza molto dura. Ieri ero in un autobus in cui dicevo è umiliante stare in un carro bestiame, però non c'è niente da fare, è umiliante stare in un carro bestiame. Hai visto che uno dei possibili assessori della Raggi, lo Cicero, ha detto zingaro di merda prima Frocetti? Sì. Ben inteso, sai, ormai il cretino è un materiale talmente diffuso che io mi sorprendo quando il cretino non emerge. Sì. D'altra parte internet ha fatto una grande promozione dei cretini. Dunque? Perché alcuni di questi cretini sono divenuti anche famosi. Dunque, che ci sia uno che dica delle fesserie in quello schieramento, delle fesserie talmente evidenti, voglio dire, delle fesserie, delle parole appunto dissennate, ma il linguaggio è stato straziato. Sai da che cosa? Da che? Dalla democrazia di massa, perché la democrazia di massa consente a tutti di aprire bocca e non è mica così semplice. Ho capito, ma che bisognerebbe fare? Tappare la bocca alla gente? Ho capito, però tu dici un dramma il fatto che non tutti... c'è scampo, non c'è scampo, cioè ti arrendi a questa cosa quasi. Io mi arrendo assolutamente. ti arrendi. Assolutamente. Della naturalmente non voglio essere molestato nel mio recinto, per l'appunto ti dicevo prima, sì. Su internet facciano quello che vogliono, però non vengono a rompere i coglioni a me, che no, sto qui a casa mia, tranquillo, non do fastidio a nessuno, non mi vengano a rompere i coglioni. Senti, la Raggi, tra l'altro, vuole fare delle multe di infedeltà per gli assessori, cioè sì. Viene esteso agli assessori il contratto di 150.000 euro di sanzione a chi non segue le indicazioni dello staff. Adesso questo mi sembra piuttosto bizzarro. Questo cosa vuol dire esattamente? Vuol dire esattamente che se uno fa una dichiarazione, se uno fa una cosa che non è in linea con lo famoso staff di persone che dovrebbero coordinare. Ma non è in linea, cosa vuol dire? Beh, ovviamente è tutto bisogna da chiederlo al dire a Casaleggio. Penso che siano frasi prive di senso, Peppino. No, ma è vero, vuole applicare questa cosa agli assessori. Non è in linea, che significa? Se uno fa una un'intervista in cui dice le Olimpiadi a Roma vanno fatte. Sì. Fuori dalla via da che ne so, cioè una qualsiasi cosa che non è concordata, eccetera, ti becchi. Ma io sapevo che in Italia c'è la cosiddetta libertà di opinione. 150.000 euro, via. Ma mi sembrano sono fesserie, perdonami, non bisogna neppure andare dietro queste fesserie. Beh, però pare che lo vogliono fare, cioè... Ma dai, su via Peppino, dai, su via. Lo dai. Vogliono fare. Ma c'è un limite a tutto. Tu firmi. 150.000. Tu firmi. Questo porterebbe una cosa buona, cioè? Al silenzio generale. Il silenzio generale che è magnifico. Cioè nessuno parla più per paura di beccarsi. Certo. È magnifico, cioè il silenzio generale sarebbe un miglioramento della situazione, capito? Fermi là che c'è la pubblicità. Di sentire questo borbottio indistinto degli imbecilli. Beh, ragazzi. Allora, fermi un attimo che torniamo fra poco con Giampiero, fermi. Siete due merda. La Zanzara. Lorenzo, pare che Sallusti e la Santanchè stiano litigando per il cane, eh? Cioè, per, sì, ho letto per l'affidamento di un beagle, se non sbaglio, cioè di un, sì. Di un cane. Beh, sono problemi pure quelli. No, sono problemi, è verissimo. Nelle separazioni sono problemi. Una volta ho letto che una coppia che aveva un patrimonio molto complesso hanno chiuso il loro rapporto senza discutere, tot a te, tot a me, senza alcun problema, e per il cane sono andati in tribunale. Tu pure andresti in tribunale ma per il cane. Ma certamente. Oddio, un attimo. Io naturalmente andrei più che in tribunale. Però riconosco che Bibi è pazza di Michela, quindi la daresti. Adesso non è il caso, non stiamo parlando di separazione tua e di Michela, per carità di Dio, certo. Dopo tanti anni che vi dovete separare a faccia, cioè, sareste dei pazzi, certo, no? Non c'è motivo. Anche se no, se magari non le cose non vanno più, ma cosa che non credo. Ma come non vanno? Non dovessero, se le cose non dovessero dopo tanti anni uno e dopo tanti anni uno ha preso le misure dell'altro. Esatto, ormai è una specie di mutua assistenza. Se passa qui adesso dinanzi al mio balconcino una troia, la guardo e mi fermo lì. Ti fermi e non fai nulla, diciamo. Ma cosa devo fare alla mia età, Peppino? Dai. No, d'accordo, però voglio dire, è una specie di mutua assistenza ormai tra te, Michele. Cioè... questo è un po' eccessivo. Vabbè, attualmente ogni rapporto è anche un'azienda. Cosa vuol dire un'azienda? No, appunto, in questo senso. Un accordo. In cui ciascuno mette le sue qualità, le sue risorse, le sue attitudini. Sì, ma detto questo. Sì, detto mutuo, io dicevo adesso in maniera molto cruda. Sì, ma mutuo, insomma, è un po' immiserente. No, sì, è vero, cioè non tiene conto del sentimento, diciamo, dell'affetto, ecco, non tiene conto. Ma sì, l'affetto, la solidarietà, l'intesa. Comunque, la lasceresti il cane. Le lasceresti il cane, questo è il punto. Lasceresti il cane? Beh, ma insomma, Bibi è pazza di lei, c'è poco da fare. Per Bibi il faro è Michela. Cioè, tu un cane lo lasceresti a Parenzo, lo lasceresti alla Santanchè o a Sallusti? Beh, non sappiamo no, qual è. Deve essere il cane a decidere. Figurati se io metto becco e deve essere il cane. Il cane no, sicuramente il cane che decide, ha il cane... scelto tra i due. I cani scelgono sempre. No, vabbè, adesso questo no. Ad occhio credo sia meglio affidarlo alla Santanchè, perché penso che l'educazione di Sallusti sia quella di fargli leggere il Mein Kampf al cane. Quindi no, non ma credo non dire così. Sia. No, questa è una battuta infelice. Sì, sì. No. Il Mein Kampf del giornale io l'ho comprato perché non lo avevo, no, e sono contentissimo di avere nella biblioteca anche questo testo. drammaticamente osceno. Ma perché devi fare il militante delle associazioni ebraiche, Davide? Quando... No, ma non c'entra, cioè, non c'entra nulla, perché il Mein Kampf, come ricorderà perfettamente. Ma l'ha comprato Fuglini, perché lo voleva avere, No, ma ce l'ho anch'io una copia, e comprare una copia... Che l'edizione Caos. Ma che c'è? Ma chi se ne frega? Oh, ma che cazzo dici, David? Ma che cazzo dici? La copia di Caos era quella del 1996. Io non ce l'avevo e quindi mi sono comprato questo. Ma di che stai parlando? Le note dal grande politologo. Ma io vabbè, anche le opere complete di Stalin, quindi non mi nego nulla, sai. Non mi nego nulla. Oggi hanno venduto all'asta, ragazzi. Credo una giacca originale. L'iniziativa del giornale mi fa vomitare. Ti fa vomitare perché devi fare quello della in linea con l'associazione ebraica. Ho detto che ho quel libro e l'ho comprato senza questa carcassa, senza questa senti Giampiero, ma della vicenda Schwarzer che pensi? Che sia guarda, è forse la notizia più drammatica, più straziante. Perché? Più inaspettata, perché io mi ero speso con la parola, sì, con la mia convinzione che questo grande atleta fosse stato recuperato, mi era sembrato bellissimo che dopo un purgatorio, un inferno, durato 4 anni, è tornato in campo, ha fatto un tempo spettacoloso, sì, ha vinto una gara importantissima. Io sono per il recupero di tutti, specie di quelli le cui colpe sono redimibili, ma che lui si sia gettato di nuovo in quel baratro, tenendo presente quello che ha passato, tenendo presente che lui è controllatissimo, tenendo presente che in questo modo avrebbe tradito la fiducia dell'allenatore che come me aveva puntato. Io sono esterrefatto, a tutt'oggi voglio non crederci. Altrimenti, se fosse vero, sarebbe un pezzo di merda, diciamo la verità. Cioè... No, non userei questo termine, Peppino. Sarebbe la dimostrazione che l'essere umano non riesce a sottrarsi al... uso questo termine ridicolo, al male. Contrariamente a quello che dicono gli apologeti di professione del bene, cioè i babbei, il male è una presenza, è una tentazione nella nostra vita pazzesca. Sì, non si può, come dire, sarebbe la dimostrazione che uno non riesce a, pur di vincere e nonostante quello che è successo, non riesce a resistere. Ma è ancora più complicato, perché io ho l'impressione che lui avesse vinto perché era stato stracontrollato. Scusa, non è che lui in questi anni lo hanno controllato una volta. No, certo. Senti, allora è qualcosa di più che pur di vincere. Sarebbe il segno di una dipendenza psicologica. Che lui senza quella fare lì, se fosse vero, non tiene se stesso, capisci? Anche se sono anabolizzanti. Senti, ma l'hai sentito tu la cosa che ha detto la Ferilli ieri sera di martedì, per caso? Ma io, guarda... Io divento pazzo, guarda. Paese, la Ferilli diventi una pensatrice di cui si tiene conto se la pensa in un modo o se la pensa... Io ho molto rispetto per la Ferilli e per le sue risorse, che sono femminili, che sono recitative, eccetera. Come guru e come pensatrice sta nella mia graduatoria, non dico negli ultimi posti, ma più ancora. Cioè, non sotto è un'opinione... Non conosco la biblioteca della Ferilli, non credo che sia una biblioteca impressionante. Ma al di là di questo della biblioteca, il punto è considerare Renzi come lo zar di Russia, cioè con tutte le cariche che ha, sembra lo zar di Russia, ragazzi, dai, insomma, è una puttanata, dai, torniamo al discorso di prima. Se andiamo dietro a tutte le fesserie che vengono blaterate minuto per minuto nella società della democrazia di massa, non la finiamo più. Quello che è impressionante è che queste cose dette dalla Ferilli, ben inteso che ha tutto il diritto di pensarle, di dirle, eccetera, eccetera, diventino occasione di una discussione tra me e te. È stata ieri di martedì, ha fatto un intervento, tutti applausi, eccetera, eccetera. Poi sai, i talk show vivono di questo. Più spacchi la mela in due, mela in due. Ma l'opinione della Ferilli più scattano gli applausi. Ma guarda che l'opinione della Ferilli vale tanto quanto quella di Mughini e più di quella del cane di Mughini. E la chiamo infatti democrazia di massa. Io chiamo questa cosa democrazia di massa. Non è esattamente così. Dunque, la Ferilli viene chiamata assolutamente per la sua notorietà femminile, eccetera. In ragione della sua notorietà femminile, eccetera, lei si siede, ha un microfono e blatera. Sì o no? Sì, è così, un po' è così. Sì. No, ecco, ecco. Perché sì o no? viene chiamata anche perché De sinistra, perché c'ha la tradizione. Sì, poi naturalmente c'è il privilegio che essere De sinistra sono una razza superiore. Ragazzi. Per questo. Ragazzi. Viene chiamata, chiamata perché è buona. Dai, perché... Davide, sì, buono. Ma no, scusami, quando chiamata... Roberto Benigni fa la tirata contro Berlusconi, applausi, premio Nobel della letteratura, eccetera, e così via, appena dice ma io quasi quasi la Costituzione si può modificare, corrotto, indegno, ho letto degli aggettivi sui giornali babbei, la sporcizia morale di Benigni. Sì, ma come si fa a dire queste puttanate? Su questo hai ragione, che si usa. Però sono due attori, uno sarà un attore più sofisticato se vuoi, l'altra sarà un'attrice meno sofisticata, uno è renziano tra virgolette, l'altra è anti-renziana, le loro opinioni ma che è anti-renziana, dai, la Ferilli non entro in questo meandro, la Ferilli anti-renziana fa un po' ridere, diciamo. Dai, ha detto che vota 5 stelle, non lo so. Ha detto che ha votato la Raggi e diventa ma ricordi la volta che la Ferilli andò in un albergo dove c'era appeso al muro un quadro di Mussolini figlio e lei volle che venisse tolto? Sì, me lo ricordo. Tra parentesi, Romano Mussolini era una delle persone più per bene che c'erano in Italia, oltre che un musicista. Tu dici che è una cosa ridicola quella roba là di far togliere il quadro Taccio. No, perché devi tacere? Non devi tacere, scusa, non devi tacere. Ciao Giampiero, ciao. Signori, a presto. Ciao. Fabrizio Roma, vai. Buonasera, ragazzi. Dimmi. Ma a parte di allacciare il discorso del fatto dei Troie, dei Mughini, ma io non è che considero Troie, però si vestono come Troie. Ma chi? Non ho capito chi. Tante in giro. Spesso io dico, sono vestita come usa lei. Si offendono però poi, no, capito? Ma se tu credo. Le vedi quelle della Salaria, sono vestite uguali. Anzi, forse sono pure più vestite. No, ma lui lo diceva in un altro modo, dai. Ho capito male io, allora. Vabbè, allora... Vabbè, niente, no, te volevo dire, riallacciandomi al discorso di quello che va a caccia dei Rom. Sì. Io non è che vado proprio a caccia, però mi sembra l'averne investito una di ste notti. Cioè? Mi sembra l'aver investito, penso sia stato un Rom, perché strada buia, tutto nero. Ho sentito una botta. Beh, i Rom non sono neri di solito, cioè non è che sono neri i Rom, ti confondi tra un nigeriano e un Rom, è un po' diverso. Non sono neri, mi sono assolora. Visto che sei così fiscale, scuro di carnagione. Vabbè, ho capito, ma non è che tu sporco. Scuro di sporco, poi soprattutto. Ma già l'hai investito a posto, non ho capito, l'hai investito apposta? Può darsi, boh. Vabbè, Fabrizio, dai, andiamo al solo. Che fai di mestiere tu? L'autista. L'autista. Io so quello che fa l'autista. L'autista che è dell'ATAC? No. Fai no, l'autista. Non so così sfortunato. Fai l'autista. Sì. Vabbè, ma fare l'autista dell'ATAC è un mestiere. Fa anche... l'assassino, mi pare anche. Potenziale assassino. Beh, no, non l'ho ucciso, dai, Parenzo. Cioè, non è andato all'ospedale. Hai messo sotto un Rom? Penso, credo, forse me lo so sognato. Devo fare un attimo mente locale. Cioè, questo vuol dire che un po' la memoria. Questo vuol dire che tu i Rom proprio non li sopporti, cioè li odi. Può darsi pure che me lo so sognato, che a volte i sogni, sai, sono talmente realistici che sembra che una cosa l'hai fatta veramente. Cioè, tu odi i Rom? Io? Dilla tutta, dai, adesso non fare diplomatico. Dice che forse hai messo sotto un Rom, adesso c'è paura di che è una cosa sui Rom. E dai, su. No, beh, non c'ho problemi a dire che io odio, che problema c'è. Odi i Rom? Sì. Odi certo, Rom. E allora, No, è una domanda, perché li odi? Sì, tutto normale ormai è diventato. Perché li odi? Perché? In quanto Rom. In quanto Rom, cioè il fatto... Cioè non so io che sono razzista, sono loro che sono Rom, è questo il punto, capito? Il problema è loro che sono Rom. Ma perché c'è... Ma a Milano quanti ce n'hai, per esempio? Ma guarda, io ne vedo pochi, perché abito, diciamo, in zona semicentrale. Ma no, ma dico la verità. Non sono come Parenzo che si spaccia per andare per essere un frequentatore di campi Rom. Io ne ho frequentati pochissimi di campi Rom, ci sono andato due volte in vita mia. Dovresti vedere come la stanno a riduce sta città, è quello che vedo. I Rom. Non solo la città. Ma secondo me la città è devastata. Anche colpa dei romani. La città è devastata da chi l'ha amministrata. No, io dico quello che fanno per strada e nessuno gli dice niente, e non solo, ma anche verso le persone, anche verso, cioè io ho assistito l'altro ieri a scippo di una donna, non vecchia, da parte dei due rom, delle due donne, per esempio, che sono scappate, nessuno è riuscito a correre dietro, e via. Ma non è questo il punto, Parenzo, non è, Roma la stiamo rendendo sporca, forse noi romani per primi. È vero, c'hai ragione, ma se tu vedi quello che fanno intorno ai secchioni della Mondezza, io che faccio un culo così per separarla, per differenziarla. Vabbè, comunque andiamo al solo. Tu vieni a fare un giro, ma io lo so benissimo. Non lo devo dire, i Rom, appunto, a me lo dici, appunto, cioè io chiuderei campi Rom, però non li ammazzerei, tu li ammazzeresti? Beh, oddio, ammazzarli proprio no, bisogna trovare un modo per farli fruttare, ecco, tipo d'inverno nelle caldaie, quelle che c'è ancora, caldaie condominiali, gli fai risparmiare un po' di gasolio, per esempio. Cioè, che cosa faresti? Ci ancora tanti palazzi ci stanno vecchi che sono ancora alimentati a caldaia condominiale, e che non hanno la caldaia autonoma, e no? E che fai? Che fai? Li usi come al posto del metano? Beh, ho capito, li bruceresti allora? Ah, certo, perché producono calore. Una volta dentro il forno, Fabrizio, calore, no? Io mi sono... ci riscaldi i palazzi, magari solo... È raccapricciante quello che dice questo schifoso signore. Raccapricciante. Però, scusa, Fabrizio, lo so, però... Io lo so, David, è che tu non lo pensi a me. No, lo so, non lo so. Ma mi puoi dire quello che vuoi, David, non mi offendo assolutamente. Ma io non è che mi devo offendere. C'è libertà di parlare. No, neanche io, assolutamente. È schifoso, non tanto. So Dio come la penso, ecco. No, ma tu puoi dire come la penso. I bambini no, quelli li farei crescere, perché se bruci un bambino di 3 kg... 4 kg quanto brucia un attimo? O fai crescere o metti all'ingrasso e produce più calore, no? Penso. Cioè lo bruci dopo. Lo bruci dopo. Eh certo, lo bruci dopo, che gli darai pure la magnavo, Fabrizio, no? Se dire. Siamo sul campo dello scherzo, è uno scherzo macabro, cioè, ma tu stai parlando sul serio? Tu bruceresti Rom? Bruceresti un conto Rom? Che un conto che butti in ciocchetto di legno e te dura mezz'ora, un conto che butti in tronco di legno e te riscalda di più, tipo il camino, la diciamo, vergogna, no? Hanno usato la un camino. Vergogna, la, dovrebbe, la vergogna che lei non ha, la vergogna che lei tu, non David, prova. Non c'è problema se vuoi. Per le schifezze che sta dicendo, non prova vergogna a tornare a casa con le per quello che ha detto, la vergogna, no, per quello che ha detto. Assolutamente no, no, no, no. Per quello che ha detto. No, David, la penso così, tu lo dico, no, intanto non mi chiami per nome, perché grazie a Dio non ci siamo come? Mai incontrati. Non ho capito, non ho detto Terrone, ho detto David, forse hai capito male, che Terrone. Non mi chiami per nome, non mi chiami per ah, nome. Ah, mi scusi, signor Parenzo, ha ragione, signor Parenzo. No, è vero, neanche ci conosciamo, non abbiamo mai mangiato insieme, ha ragione. Mi cospargo il capo di ceneri. Razzisti schifosi non mi chiedo neanche a tavola, quindi no, ma se vuole non può neanche continuare a rispondermi, David, non è obbligato, no, oppure può farlo, per carità, libertà di parola e di pensiero assoluta. Io le rispondo con il tribunale, per quello che lei con il tribunale, per il mio pensiero, perché il pensiero adesso è denunciabile. Beh, insomma, se uno dice brucerei no, brucerei un Rom, ma non so l'unico che lo dice, Non so nemmeno se sia un reato. Ci sono politici italiani che non è che lo pensano, politici italiani che hanno bruciato qualcosa di molto più serio, che hanno per esempio il tricolore. Vabbè, ma quello che c'entra, dai, è diverso. Allora, io sto dicendo che brucerei qualcuno, ho detto che lo brucerei, ma non l'ho mai fatto, ok? Un mio pensiero. Che distingo proprio. Lo brucerei. Non c'entra niente, dai. È non ovvio che quello che ho detto, usarli come carburante, è una cosa impossibile, è ovvio che sto dicendo una cazzata, no? Ma no, una cazzata, non mi pare. D'accordo su questo. Ma no, non sta dicendo... qualcuno lo ha fatto. È una cosa proprio improponibile, ma dai, no, impossibile, no. Perché qualcuno in passato lo ha fatto, siccome qualcuno degli anni 30 lo ha fatto. Vabbè, fermi tutti. Ciao Fabrizio, no, ciao, vabbè, ciao. Dai Parenzo, dai. Ciao, su, ciao, dai. Ciao. Zanzare, UH Bar, a Zanzare, UH Bar. La Zanzara. Giuseppe, oggi su Facebook c'era la foto di una che si è fatta i dreadlocks ai capelli con i peli dei suoi cani dopo che li ha spazzolati, senza dare dolore e senza morte. Ma dove cazzo stiamo andando a finire? Se vuoi la foto te la mando. Ciao, sei un grande. No, ma è vero, Davide, pare che c'è un nome e un cognome di questa signora, questa ragazza sarda, che si è fatta i capelli dread, là, come cazzo si chiamano, con i peli degli animali. Ma i peli questo. Degli animali. È la cosa meno strana che ho sentito oggi, per quello. Cioè, per te è normale, non ho capito. È normale. No, è più normale. Questa è normale. Vabbè, questa è normale. No. è più normale questo di quello che ho sentito di questa gente che vuole bruciare i rom. Lo trovo, guarda, trovo tutto sommato più normale questo di questi. Vabbè, certo, rispetto a bruciare i rom, che cazzo c'entra? Sì, tifosi, di questi tifosi razzisti che chiamano, dico, ma no, ma in fondo tu io lo non sai l'ho che fatto. C'è una roba incredibile. L'ho solo detto. C'è una roba incredibile che ho letto oggi, che avevo notato pure l'altro giorno, dei manifesti a Milano che ho visto su contro l'AIDS, nel senso contro la diffusione dell'AIDS, la prevenzione eccetera, in cui c'è il volto della Sozzani, l'ex di Vogue eccetera eccetera, e in questi manifesti c'è scritto: in Italia 120.000 persone sieropositive, 4.000 nuovi casi all'anno, l'AIDS è di moda, punto interrogativo, io ci metto la faccia. A te chiedo di fare shopping, meglio fashion victim che AIDS victim. Cioè, tu ti rendi conto? Cioè, sì, ma che dov'è lo scandalo del manifesto? Non capisco. No, scusami, cioè, meglio fashion victim che AIDS victim? Cioè, meglio essere fashion victim, cioè ti propongo, ti dici... Meglio essere vittime... No, meglio nulla, non si può, ma l'alternativa all'AIDS non è fare shopping. Ma è chiaramente una, come dire, una iperbole. No, è una cazzata, è una minchiata, è una puttanata colossale. Una iperbole, uno slogan... Cioè, per fare pubblicità allo shopping, per fare, credo, indirettamente pubblicità allo shopping, a comprare le cose, parli di AIDS, ma che cazzo c'entra? Non è che l'alternativa all'AIDS sia fare shopping. Ma è ovvio, ma adesso proprio tu che ti scandalizzi. Ma no, ma è politicamente scorretto. Ma non è, dai, questo tu. Non è politicamente scorretto, è politicamente cretino. Ma è politicamente scorretto. Oh, ragazzi, meglio fare. Avete ragione voi. Meglio fashion victim che AIDS victim. Va benissimo. Fate il cazzo che volete. Lorenzo da Milano, vai. Buonasera. Dimmi, buonasera, dimmi. A tutte e due. Allora, io ho osservato questo. Che Parenzo, quando si parla di razzismo in generale, si scalda, ma appena gli si tocca, che tra l'altro condivido le sue idee, le condivido in pieno, ma appena si tocca l'argomento ebrei, gli parte veramente l'embolo. Io non faccio differenza. Io non faccio differenza. Ma dipende quello che uno dice, Lorenzo. Dipende sempre da quello che uno dice. Se uno, come quello di prima, ha detto voglio bruciare gli ebrei, è chiaro che uno dice no, scusa, forse sei un cretino. Così, giusto per dire, che sia un cretino e allora punto, basta, che c'entra? Cioè, non... Però sui nomadi non si scalda così tanto. Chi non si scalda? No, mi sembra. Ma no, questa è la mia impressione. Ma scusa, magari quello di prima è intervenuto solo sui nomadi. E non mi sembra che. Sì, ma certamente condivisibile, però non lo vedo così accalorato. Vabbè, ma adesso io invece fare sarei le accalorato sempre, L'esegesi dell'atteggiamento di Parenzo, degli umori di Parenzo, dai, questo francamente mi sembra eccessivo, dai. Allora, io voglio capire cosa ne pensa della questione di quello che ha scritto Saviano, cioè una Ciccioni è bello, insomma, questo ha detto in sostanza, no? Cioè, che ha detto? Ha detto che la cellulite non è male, esaltando, diciamo, l'uso della cellulite nelle foto delle modelle, ma non è una cosa nuova, le modelle curvy, le modelle con un po' di ciccia, le modelle con un po' di grasso, è una vita che se ne parla di queste cose. Lemme, come stai, Alberico? Sto molto bene. Stai bene? Beh, sempre ormai meglio. La televisione è finita, non stai più in televisione, dunque sicuramente avrai una mancanza terribile, sarai come dire, no, dipendente ormai da quella... No, ormai è il mio pubblico che è dipendente da me, non il contrario. Addirittura, cioè ti certo. Reclamano in TV, ti reclamano, esatto. In TV a fare a pugni con le ciccione, certo. A essere preso a schiaffi, numeri pazzeschi. Ma te abbiamo inventato noi, d'altra parte, caro Alberico. Senti, voglio dire una cosa, ma che dici di Saviano? Saviano dice delle grosse fesserie per quanto riguarda la cellulite, perché è sinonimo di malattia, di patologia, sia psicologico, sia dal punto di vista estetico. Cioè chi ha la cellulite ha problemi di obesità o problemi di bulimia, potrebbe avere problemi di diabete, di ipertensione, quindi sì. Non è un bel vedere, ma anche un star male continuamente. E poi noi maschietti, vuoi mettere a carezzare una bella pesca? Una bella? Pesca. Bella, oppure un arancio? C'è molta differenza. No, ma scusa, fammi questa differenza tra la pesca e l'arancio, non ho capito. Cioè, la cellulite è a buccia d'arancio. Quando tu accarezzi un bel culo di una donna pieno di cellulite, ti fa ribrezzo, no? abbastanza. Cioè, quando accarezzi una donna piena di cellulite col culo pieno di cellulite. È un arancio. Sì, devi è un arancio, perché ci sono quelle incrinature, quelle increspature, che c'è? Sì, c'è proprio la pelle a bucce di arancio, no? A bucce di arancio. Invece la pesca, diciamo, è morbida, diciamo. È la pesca. Vellutata, no? Tu dici accarezzare. Una poesia, no? Una poesia. Dunque, accarezzare un culo di una donna così è una cosa. Beh, c'è invece a chi piace, ad esempio, Botero, quel pittore che disegna tutte le donne ciccione. Cioè, io ho un amico, ad esempio, a cui piacciono moltissimo le donne ciccione. Sì, devo dire che è una fissazione di un po'. Per io esempio, ho un amico di cui non potrò dire il nome, si chiama Roberto, e non dirò il cognome perché è uno di Milano che ha peraltro una gioielleria. Peraltro, una gioielleria in una zona di Milano che non dirò perché è una zona vicino. Vabbè, insomma, alla stazione Garibaldi. Ma insomma, al di là di tutto questo. Vabbè, insomma, è fissato con le donne grasse. Lui è fissato con lui proprio. Lo chiamano anche la gioia di queste. Sì, devo dirti la verità, caro Lemme, molti sono fissati, molti, ci sono persone che io conosco che sono fissati con il farsi, scoparsi le donne grasse. Cioè, ma bisogna chiedere alla donna grassa se gli piace essere scopata da grasso o da magra. Questo è il punto. Cioè, a lei dice, lei vorrebbe dimagrire, dici? È ovvio, è la donna grassa, la donna con la cellulite non sta bene con se stessa, eh? Ma tu ancora hai l'abitudine di far arrivare le persone da te, di dirgli ciccione di merda, fai no, schifo? No, di merda no, ciccione basta. Ciccione, di insultare le persone. Cioè, molti però mandano, non è un bel modo. Molti mi hanno raccontato, guarda che è vero quello che va detto a voi Lemme mesi fa. Cioè io sono andato lì e mi ha detto sei un ciccione, fai schifo. Com'è che dici? Una frase tipica, dimmi una frase tipica che usi. Ma non si vergogna andare in giro così, non vede come grasso, ciccione. Così. Come fai a trombare così? Non ti vergogni. Mamma bisogna mia. Vergognarsi nella vita. Avvicinati un po' col microfono, se no non si sente. Ma è una persona che umilia, è brutto. Beh, brutto. Ma l'abbiamo già detto. È così. In realtà, umiliandoti potrebbe far. No, ti potrebbe. Oh, c'è una reazione emotiva del soggetto, c'è un risveglio in sé e lotta. Dice, adesso ti faccio vedere a te, brutto stronzo, mi dicono. Brutto stronzo, mi dicono. Sì. Cosa sono capace di fare? E dimagrisce. Bene, abbiamo raggiunto il risultato insieme. Per cui anche, che ne so, la Ferilli, che è un po', insomma, per te è una grassa oppure no? È ciccione, la Ferilli è ciccione. È ciccione, la faresti dimagrire? La faresti dimagrire? Deve dimagrire, non la Ferilli, deve dimagrire. Deve dimagrire, deve. Ma è un'icona, ma quale? Deve essere meravigliosa così, mediterranea, ma che dice questa? Vabbè, lo dice Lemme, che ti devo dire? Lo dico io. È un'icona per i maschi, non per le donne. Cioè, un'icona, tu dici, non per le donne, perché l'icona delle donne è invece filiforme, magra. Non è filiforme, è la donna fatta bene, con dei bei gluti, belle cosce, insomma, delle belle teste, però... Non ci devono essere. Però no. Scusami, Lemme, tu che pensi delle cose di poi lui sarà mica bello, io l'ho visto in televisione. Francamente. Anche tu pesi. È un sesso a pedali, professore. Poi dopo di che possiamo dire quello. Cioè, sa pedale, un signore, è un dai. Genio del dimagrimento, ma è no, un no, io peso 94 kg, sono un fisico eccellente, favoloso. Un fisico eccellente addirittura. Sono alto 1,98 e peso 94 kg, qualche volta 96. Vabbè, comunque no, pesi tanto, anche tu devi dimagrire. Ma è muscoloso, un fisico muscoloso. Hai un fisico muscoloso. Certo. Cioè, 96 kg è un fisico muscoloso, anche tu la pancetta ce l'hai, su, no, fai non tanto ho il figo. Pancia, guardate, non ho pancia. Non hai pancia. No, sono alto 1,98 m, ho fatto pesi. Lo sai che tu devi venire un giorno, adesso che hai smesso con la Durso, devi venire un giorno qui in studio e mi devi far vedere veramente se hai la pancia o no. Vieni qua a Milano in studio, ti invito, e mi devi dire, mi devi far vedere veramente questo fisico che hai, ti giuro. Anche che addominali che ho. Ma poi me li fai vedere. Ma senti, ma tu che parli così bene tanto delle donne, hai visto che due donne sono diventate sindaco di Roma, com'è il cervello delle donne? Come sarebbe? Questa è una tragedia, guarda. Quando la donna prende il potere c'è uno sfacelo sulla città. Addirittura? Sì. E perché, dici? Perché hanno un cervello emotivo, quindi loro non hanno un cervello razionale, vivono nella loro emotività. Ma hanno il cervello più piccolo? Sono essere inferiore a quello che dico più, sempre perché hanno soltanto esclusivamente un cervello emotivo. Per cui tu dici per Roma e per Torino una tragedia? Staremo a vedere. Io mi auguro che facciano qualcosa di buono. Però le premesse sono la tragedia. Le premesse sono la tragedia, sì. La tragedia. Vabbè, la donna è al potere fa solo danni. Solo danni. Vabbè, Alberi, vieni presto in studio, mi devi far vedere gli addominali, Ciao, ciao. Verrò ciao. Senz'altro. Ciao, Alberi, ciao. Cruciani, sei un figlio del demonio. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. sono andato 5 volte ad Amsterdam, Parenzo. Mai visto un museo. Mignotte e marijuana. Mignotte e marijuana. Hai capito? Un frequentatore di Amsterdam. No, mi dispiace perché invece c'è di tutto. Ah, tra l'altro oggi ho letto che anche Califano, per esempio, Califano era uno che gradiva le donne grasse. Sì, ma infatti. Preferisco 2 chili in più che 2 etti in meno. Non me ne frega nulla della cellulite. Un'idea di cellulite mi fa anche una punta di libidine. Apprezzo inoltre la bocca e il corpo, soprattutto se muscoloso, ma anche con la pancetta. Non ho un ideale di donna, mi deve piacere e stimolare. Vabbè. Il peggio di Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti. Ascoltatore contro Salvini. Ormai cominciano tutti a capire chi è Salvini. Io l'ho scoperto 4 anni fa. Salvini forse ha avuto una infanzia turbata. È il caso che Bossi la pianta. Se ha qualcosa da dire, la dice in separata sede. Non viene a rompere i coglioni in televisione. Questo perché Bossi ha criticato Salvini dicendo che ha perso le elezioni, eccetera, eccetera. Ascoltatore contro Varin. Sono 5 minuti e 42 secondi che mi tieni in linea. Quant'è? Dai, ti do subito i soldi. Dai, barbone, straccione, quanti cazzo di soldi vuoi? Dai. Quanti ne vuoi? Devo dire che sono tutti rinnegati quelli della Lega. Ok, allora vaffanculo. Oh, l'ho pure mandato a fanculo. Cioè, mi rompe i coglioni che lo tengo in linea e dice pure che sono rinnegati quelli della Lega. Ma chiama Radio Popolare? Ma che cacchio vuoi da me? Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Sentite come ne pensa uno su di cosa pensa uno di Parisi, Padania bella. Perché se io fossi stato milanese, la verità, a Parigi non l'avrei votato. Cioè, mettere l'angoscia solo averlo in faccia. Fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre e un figlio. Chi è Salvini? Salvini ha solo il liceo. Cosa vuol? Ormai si è montato la testa, vuol diventare primo ministro. Il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per la lì. Che questo popolo qua si svegliasse, perché non può prendere 500 euro al mese e pagarne 500 di affitto. Dai cazzo, ci vuole qualcuno che ci porti in strada a fare bordello e basta. Padania bella e libera. Che vuol dire andare in strada a fare bordello, Parenzo? Vuol dire andare in strada a fare manifestazioni, che è un'espressione tipica, mi pare, veneta. Senti, no? Ci vuole il sindacato di Liberazione del Nord, senti. Pronto, mai dire Italia, mai dire Italia. Noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo il sindacato di Liberazione del Nord. L'Italia a noi non ci darà mai nulla. E chissà che non torni la secessione adesso nella Lega, eh? Chissà. Senti. Secessione. Grazie, mai dire Italia. Forza Irlanda e fuori dalla Coppa, grazie. Sì, ma non ci andiamo fuori, Forza Irlanda è uguale, siamo sempre qualificati, cretino. Contro di noi, senti. Dopo aver ascoltato quei due ipocriti di Parenzo e Cruciani, sono due figli di buona donna, se la meritano tutto, più ipocriti di così si muore. Comunque noi andiamo avanti senza ascoltare quei farabutti. Farabutti, siamo dei farabutti. Salirà alto nel cielo e ti cullerà. Adesso volete anche andare in televisione? Sarebbe la vostra volta che vi spotterò in faccia una volta che vedo la vostra faccia di Evo. Voi siete dei bugiardi. Pensamenti. Padania Sammy, scusami se richiamo, ma è ora di finirla con sti beduini. Porca miseria, è ora di finirla, non possiamo nemmeno più dire cosa sono. E non bisogna dire chi siete. Basta, beduini, a fuori dai coglioni. Salvini ha perso i voti di tanti, tanti milanesi perché l'hanno voluto castigare. Ha commesso un errore gravissimo, ha lasciato la sua compagna, la mamma della sua bambina, che la bambina aveva solo un anno, per andare con un'altra. Non gliela perdono, ti ringrazio della tua opinione, però mi sembra... Sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Questo mi sembra troppo, eh? Ma, guarda, ormai quella lì è una giostra impazzita, quella radio. È stupendo, stupendo. È una giostra impazzita, dai. Va bene, dai, ragazzi, andiamo a Roma, Carmine. Ma chi è? Carmine, no? Andiamo a vedere la partita. Chi è? Carmine? Buonasera, Giuseppe. Carmine! Buonasera, Giuseppe. Ma che vuoi, il dominchione, che già replica? O pappagallo già parla. Vai, sfogati, pappagallo. Sfogati. Hai finito, che dopo parlo io. Pappagallo. Che ti dà fastidio che parlo siciliano? Pappagallo di minchia. Fai silenzio, che devo dire una cosa. Dimmi, Carma. Ah, finiscila. Allora, Giuseppe, dimmi, io ti volevo dire una cosa, però. Dimmi, questa trasmissione non è che la macchiude. Perché? In che senso, scusa? Ma porca, ma non è possibile. Io ieri sera sentivo l'islamico che ti rompeva i coglioni e volevo mangiare l'autoradio. Non è possibile. Sta gente arriva qua e rompe i coglioni. Ma prova un po' tu andare là da loro... E vedi che cazzo ti fanno se fai un'offesa? Ti mettono in galera, a quale avvocato? Non ti fanno manco parlare. Ho capito, però questa, noi andare da loro. Questa è la forza nostra, cioè noi facciamo parlare tutti. Ecco, anche Carmine, tu. Vai da loro. Va bene che facciamo parlare tutti, ma a Monnezza no, però. A Monnezza no. Vabbè, no, noi facciamo parlare tutto. Parenzo, che vuoi dire a Carmine? Non ho capito. No, volevo dire che siccome il problema dell'Italia è la fuga dei cervelli, perché non va un po' da loro lui? Perché non va lì? Non va lì, un biglietto di sola andata, ecco. Va là. Ecco là, scienziato sta parlando. Davide, io l'altra sera t'ho vista in onda, ma c'ha due occhi che pare che sei uscito dal cimitero. Ma che minchia parli? Fuori onda, fuori onda. Ma t'ho visto la televisione, ma c'ha due occhi che ti escono neri, sembravi un tossico. Ma datte una sistemata, ma che minchia, ma finisce, datte una sistemata. Questo pure è vero, questo pure è vero. Davide, mettete un po' di farde. Volevo sapere, sì, quello lo metterò senz'altro, ma quello lo posso correggere. Volevo sapere, i tuoi genitori quella sera perché non sono andati al cinema anziché... Ma perché ci piaceva andare a scopare, ma che minchia ti interessa, tia? Non l'ho capito. Ma che ti interessa? Minchia, mi sarà al mondo a te. Comunque, Giuseppe, io sto... Carmine, devo parlare con una persona adesso. Carmine, dimmi. Ti volevi sfogare su sta cosa dei musulmani, ho capito. No, non volevo sfogare questa cosa, però ti volevo dire... L'ultimo aggiornamento, ho visto che hanno aperto un bordello a Nova Gorica, è una cosa eccezionale. Ah, Nova Gorica eccezionale. Ecco il maiale. Non volevo essere. Com'è che fai, ripetitivo. Carmine? Com'è che No, Giuseppe, perché è una cosa eccezionale. Praticamente, Carmine, maiale. Facciamo così, adesso devo parlare con una persona. Poi tu dettagliami domani su Nova Gorica, ma già ci sei stato su Nova Gorica? No, ci devo andare sabato, Giuseppe, è una cosa eccezionale. Ci sono un sacco di troie, un sacco. Vabbè, quello sicuro, quello fanno. No, ma c'è merce buona, cioè sono tutta prelibata, tutta cose fresche. Sì, merce buona. Sì, Giuseppe, no, voglio andare a vedere. Ne parliamo domani, Carmine, ciao, ti saluto, ciao. Allora, Gianni Mattiolo, caro Parenzo, è uno che ha sostanzialmente un come si può definire, Gianni? Che cos'hai tu dalle parti di Padova? Intanto ciao e ciao a tutti. Ciao, ciao Gianni. Guarda, ho un parco, tecnicamente sarebbe una mostra faunistica permanente. C'hai un parco Spiego, cerco di spiegare l'etologia degli animali, via. Però hai un sacco di felini dentro, tigri, che c'hai? Assolutamente, è l'unico parco in Italia dedito a grandi felini, solo grandi felini. 30 sì, felini, hai, quanti felini hai? 30? Sì, una trentina più o meno. Allora, quindi quando vengo a Padova con mia figlia Margherita posso venire a vedere questo parco di animali praticamente. Ma non lo so se sia visitabile in realtà, cioè perché già è visitabile questo parco? Allora, siamo un'associazione, è visitabile su prenotazione diventando soci. Devi diventare quindi posso soci. Venire con mia figlia a vedere questo parco di animali feroci. Vabbè, comunque la cosa fondamentale non è tanto tua figlia, sì. Ci andrai adesso, poi ti metto in contatto, adesso non c'è un pericolo. No, ti sta ascoltando mia figlia. No, allora Gianni Mattiolo è quello che ha portato la tigre dal Papa. Cioè la tigre che hai visto lì, hai visto sì, dal Papa, bravo. Che lui ha a un certo punto la tigre, lui ha tentato di accarezzarla, che ha fatto Gianni? No, no, guarda, allora la cosa è molto semplice. Il Papa l'ha accarezzata come giustamente, sì, insomma, gliel'ha chiesto se voleva accarezzarla ed è stata accarezzata. Ma non doveva l'unica farlo, cosa è che la non tigre, doveva farlo. No, doveva assolutamente farlo, ma la tigre, non essendo radiocomandata, si è girata a guardare chi era che la carezzava, basta. Però, però mi hanno detto che ha un po' disatteso quelle che erano non dico gli ordini, ma quella che era il protocollo della tigre, chiamiamolo così, o no? Assolutamente no. Gli animali non disattendono mai, gli animali hanno ragione sempre. No, il Papa. No, tant'è vero che poi l'ha carezzata, infatti. Ma... solo che quando si è visto girare la testa, giustamente ha aspettato come era giusto. Scusami, che però la tigre lì, diciamo che era solo col guinzaglio, c'eri pure tu, no? Assolutamente sì. E com'è che era con un guinzaglio? Non morde. Non era pericolosa la tigre accanto al Papa? Che cosa fa? Ma vedi, il discorso è molto semplice. Qualsiasi animale può essere pericoloso e qualsiasi animale non lo è. Io gli animali li tiro su in maniera equilibrata, per cui è chiaro che quella tigre in quel momento con il biberon, il latte eccetera eccetera era in una situazione estremamente rilassata. Cioè non ho capito, tu gli hai dato il biberon prima o durante o mentre era lì dal Papa? No, durante, ma cioè, sai, d'altronde è anche il mio lavoro. Io ma il biberon con che cosa? Scusa, il biberon che c'è dentro? Prego? Il biberon, un sedativo, che c'è dentro il biberon? Oh, questa è un'altra cosa, anzi tra l'altro questa se vuoi ne parliamo. Latte del normalissimo latte di capra. Cioè se tu dai latte di capra alla tigre, la tigre sicuramente non morde, non fa nulla. Beh, non è proprio così, il discorso è che la tigre è cresciuta diciamo all'inizio con il biberon, poi l'ho tenuta una volta ogni 2-3 giorni, gli do il biberon come premio, chiaramente la tigre mangia carne, però lei quando prende il biberon si lascia andare completamente e quindi era una maniera per tenerla rilassata. Cioè, non c'era pericolo, cioè col biberon non c'è alcun pericolo. Ma guarda, no, io ti dico questo, io addestro animali a farsi fare le cure mediche, per cui normalmente quando facciamo un prelievo di sangue io do il biberon alla tigre e la tigre si fa fare il prelievo di sangue dalla coda o dalla zampa. Ma è vero che problemi. Esiste un test sullo stress? Assolutamente sì, è un test lo cioè, dicono che le tigri, una cosa che non ho inventato io. Ecco, dicono che le tigri in cattività, gli animalisti dicono no, per carità, sono stressate, non vivono nel loro ambiente naturale, a parte che questa qua è nata in cattività, immagino, no? Cioè, guarda, è una terza generazione addirittura, a casa mia sto parlando. E quando fai i test sullo stress che viene fuori? Guarda, nel nostro caso è venuto fuori che hanno meno stress di un gatto domestico. Addirittura? Sì. Mamma mia ragazzi, ma tu queste qua le affitti per gli spot, che ci fai con questi felini che c'hai? Ma guarda, il discorso è questo, se io dovessi solo affittare, quindi lucrare, come dicono i nostri amici anzianimici animalisti, ne avrei solamente 2 o 3. In realtà nel mio lungo peregrinare, più di 20 anni, tutti gli animali che io trovavo, diciamo così, in condizioni un po' tenuti male, diciamo, io... chiedere niente a nessuno, me li compravo, li portavo a casa e cercavo di dare loro Vita dignitosa. Come campi? Affittando questi animali per gli spot, per il cinema, per che cosa? Ma più che allora ho due diversi tipi di, diciamo, di tipologie. La prima con questa piccola mostra che ho messo su, dove cerco di però non è uno zoo, è qualche cosa di diverso, perché le persone fanno solo visite guidate e cerco di parlare loro di quella che è l'etologia degli animali. E poi la seconda è quando mi chiedono degli animali per esporto o per il cinema, li do. Vabbè, comunque abbiamo capito. La famosa pantera nera di Celentano è mia, ad esempio. Ecco, ecco, abbiamo capito una cosa: che in realtà la tigre per il Papa non era sedata, Parenzo. Cioè, poteva. No. E veniva tenuta, diciamo, calma con un biberon, con un semplice biberon. Beh, con il geniale latte. Questo, geniale. Senti, geniale. Un'ultima cosa: ma ti rompono i coglioni quelli di 100% animalisti? Cioè, l'amico Mocavero, eccetera, ti rompono il cazzo pure a te, no? Allora, guarda, io sai che io faccio parte della Fedea che ormai proprio per. Proprio per diciamo così, fronteggiare questo animalismo imperante, abbiamo messo su un'associazione di detentori e addestratori di Vabbè, animali esotici. Ti rompono i coglioni? Beh, sicuramente, guarda, il fatto il 100% sì, mi rompono, ma non è tanto questo. Il problema è che più delle volte sparano a caso delle cose senza. Ma Mocavero, che tipo è? Guarda, che io sappia è un personaggio che ha avuto qualche trascorso abbastanza burattoso, soprattutto per droga, in qualche discoteca, del qui del Veneto. Droga? Però, in che senso? Spacciava, non credo, amico mio. Ma guarda, io ho sentito dire che qualche problemino dovuto a questa cosa qua ce l'ha avuto. C'è da dire che c'è un sistema teppistico, per, a mio parere, per protestare, che io non condivido minimamente. Va bene, Gianni, ciao, presto. La tigre col biberon dal Papa. Ciao. Ragazzi, a domani, ciao. Cruciani, ma va suca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.